Noi convochiamo un altro interessante personaggio che è profondo dalle sue nelle sue riflessioni sulla metaetica e tante altre cose. Anche per lui non uso parole di elogio per richiamare testi, libri. Mi permetti solo di dirti che sei un carissimo amico di tanti nostri moralisti del Triveneto, i quali ti ricordano sempre con affetto. Ecco, Salvatore Primitera della Facoltà Teologica di Sicilia. A te allora la parola dal punto di vista teologico, ricordando che il tuo amico sociologo quasi quasi ti ha prevenuto. Vediamo se tu adesso doni qualche cosa al sociologo perché riceva anche lui e non soltanto il teologo riceva dal sociologo. Grazie dell'invito. E vorrei innanzitutto precisare che il mio interesse per questa relazione va a sfociare in una trattazione prevalentemente metodologica, epistemica, in riferimento alle due discipline, proprio perché credo che per avviare, per portare avanti un dialogo proficuo a livello interdisciplinare sia innanzitutto indispensabile, decisivo, un lavoro di chiarificazione metodologica ed epistemica su ciò che caratterizza la specificità scientifica di ogni disciplina. E questo lo ritengo ancor di più valido, significativo oggi, perché a mio avviso ci ritroviamo in un periodo di estrema, posso anche dire, confusione epistemica fra le varie discipline. In un periodo in cui è difficile, estremamente difficile, separare nettamente i confini scientifici di una disciplina rispetto a quello di un'altra. Sintomatico è il fatto che in questi ultimi anni si parli tanto di epistemologia, di metodologia. Il fatto che se ne parli significa, a mio avviso, che si avverte il bisogno, che c'è carenza di una precisazione, appunto, scientifica a riguardo. Io mi muovo dal punto di vista teologico ed evidenzio in alcuni punti quelle che sono le caratteristiche scientifiche epistemiche delle due discipline metodologiche, per poi aprire una prospettiva nei confronti del futuro, nei confronti del modo come queste discipline si pongono di fronte al futuro dell'uomo, e per precisare anche in che modo possono dialogare e progettare un futuro umano, cosa molto importante, appunto perché anche da un punto di vista teologico diventa ancora più significativo, appunto perché nelle nostre responsabilità progettare questo futuro, programmarlo, prepararlo per le generazioni future. E qui evidenzio come questo futuro possa essere preparato solo se ambedue le discipline vanno a sfociare in un interesse, la sociologia dico e la teologia, in un interesse di tipo etico. Primo punto, allora, la dimensione escatologica della teologia come sua caratteristica specifica, è quella fattuale descrittiva della sociologia. Specificità scientifica delle due discipline. La teologia, in quanto riflessione sistematica sul discorso rivolto da Dio all'uomo, è per natura sua aperta al futuro. Ovviamente nel parlare di questa prospettiva io evidenzio la prospettiva scientifica, evidenzio la caratteristica e il taglio del tema che mi è stato affidato. E per natura sua la teologia aperta al futuro si interroga sul futuro, si proietta sul futuro, fondandosi sulla parola di colui che si rivela all'uomo e su eventi già verificatisi. La dimensione del futuro le è specifica, direi quasi le è fondamentale, come è chiaramente evidenziato dalla prospettiva paracletica delle beatitudini. Una beatitudine promessa nell'altra vita garantisce, aiuta a vivere su questa terra. Anche come coinvolgimento della storia umana e del creato tutto. Pensiamo alla lettera ai Romani, al capitolo 8, quando Paolo parla di questa creazione che geme, che avverte le doglie, nella dinamica eternamente dimensionata dei rapporti intratrinitari. Il tutto dipende da Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. La teologia riflette e descrive quell'evento salvifico che si realizza nella storia, ma che la trascende al tempo stesso, e che si ripropone sempre come evento mai pienamente descrivibile nel presente. C'è un passato che non è ancora ciò che si realizzerà nel futuro, c'è un presente che è a metà strada, che si ritrova sempre fra il già e il non ancora. La sociologia, invece, in quanto rilevazione del dato fattuale, questo a mio avviso è il momento specifico, caratteristico della sociologia, ciò che la distingue dalle altre discipline, ne evidenzia le caratteristiche presenti, esplicita le cause genetiche che lo hanno determinato, intravede il possibile articolarsi futuro, ma sempre come discorso circoscritto dai condizionamenti della proiezione attuale. Si può anticipare, prevedere in un certo qual modo il futuro, ma entro certi limiti. La sociologia può presumere di raggiungere l'esaustiva rappresentazione del dato preso in considerazione. Possibile, a mio avviso, per la sociologia, descrivere la fattualità. Mentre alla teologia sfugge l'esaustività descrittiva di un evento escatologico e trascendente, proprio perché la teologia si fonda sempre su un momento di fede. I fondamenti metodologici sono pertanto anche diversi, perché la teologia, come riflessione sull'attuarsi nel tempo dell'eterno progetto salvifico di Dio, implica riferimento agli eventi del passato, alla loro attualizzazione nel presente e alla loro anticipazione del futuro. Sulla base del messaggio rivelato da Dio e dall'uomo accettato per fede. Momento decisivo. Il futuro è un futuro che in ultima analisi dipende solo dalla volontà creatrice e salvifica di Dio. L'uomo è un semplice collaboratore. Servo inutile. Il compito dell'uomo è appunto quello di collaborare come servo inutile nel processo attuativo di simile progetto. E ovviamente, da questo punto di vista, la teologia va a collocarsi su un livello ben preciso. Alla base del suo discorso ci sta sempre la componente super razionale o di fede, mai pienamente verificabile sotto il profilo empirico-fattuale, mai chiaramente dimostrabile. Da questo punto di vista il metodo della teologia può essere considerato, può essere rappresentato come metodo interpretativo di una realtà superrazionale, della dimensione superrazionale della realtà, di quella dimensione che noi possiamo percepire solo per fede nella fede. La sociologia, come descrizione del presente in riferimento al passato, può anticipare il futuro, in quanto futuro programmato dall'uomo, è soggetto sempre alle interferenze di elementi imprevedibili al momento presente. Essa però, fondamentalmente, anche se non esclusivamente, mira e può riuscire nel tentativo di descrivere l'evento presente. E potrebbe pure ritenersi appagata dal conseguimento di questo scopo. Il suo metodo è un metodo che si fonda sul dato esistente empiricamente verificabile, il suo è un metodo descrittivo, diverso quindi da quello della teologia, diverso da quello valutativo dell'etica. I contenuti delle due discipline, su cui le due discipline riflettono, sono anche diversi. Il discorso su Dio della teologia implica il discorso della tensione scatologicamente dimensionata. L'uomo della teologia si proietta sempre verso il suo Dio che vive al di là del tempo e della storia, per ritrovarsi coinvolto dalla e nella trascendente eternità del suo esistere. Ogni discorso su Dio o sull'uomo e sul loro reciproco incontrarsi storico per iniziativa stessa di Dio acquisisce validità teologica solo se e nella misura in cui va ad assumere consapevole collocazione entro un orizzonte trascendente. Il discorso della sociologia, invece, è essenzialmente discorso sulla dimensione storica e immanente dell'uomo. È anche discorso su Dio, ma può diventare discorso su Dio solo se, solo in quanto oggetto di immanente attenzione umana. Quindi, discorso sull'uomo che si rivolge a Dio. Ogni prospettiva, sia pure trascendente, si ridimensiona entro un contesto immanente nel momento stesso in cui viene assunta come oggetto di anatto di fede. Di tutto questo ne può parlare la sociologia solo in termini molto riduttivi, ovviamente non in senso negativo, dal punto di vista sociologico ovviamente. Ne può parlare solo in termini molto riduttivi come fenomeni che sfuggono nella loro globalità, nel loro significato più profondo, ad un controllo razionale. Non può mai descrivere la mia fede, la fede di un popolo, lo vedremo. Secondo punto, teologia e sociologia in quanto discorso scientifico. In quanto discorso scientifico corrono diversi rischi. Proprio per via della loro profonda diversità strutturale e scientifica, è frequente il tentativo di riportare entro un orizzonte riduttivo la specificità strutturale del discorso teologico da parte della sociologia. L'abbiamo già sentito. E la tentazione da parte della teologia di ridimensionarsi a livelli sociologici. Grande che non mi pare sia stato evidenziato. Dal punto di vista sociologico si potrebbe parlare di mire espansionistiche della sociologia che tende a stabilire una egemonia su altre discipline, quasi che la diversità metodologica e contenutistica della teologia sia, possa e debba essere considerata come segno della debolezza del pensiero umano che non sa tenersi ancorato alla realtà. Dal punto di vista della teologia, si potrebbe dire che questa disciplina in certi momenti abbia quasi paura della sua stessa diversità, che non sia in grado, che non sappia, che non possa dimostrare e fondare quindi cognitivisticamente, che equivale a razionalmente, la caratteristica specifica del suo metodo e dei suoi contenuti, senza con ciò pretendere di poterlo spiegare intellettivamente. In certi momenti è la stessa teologia che tende a riportarsi su livelli riduttivi, quasi autodistruttivi. Ma in altri momenti assistiamo a questa serie di critiche rivolte alla teologia, critiche di tipo non cognitivista, appunto perché si evidenzia l'impossibilità da parte della teologia di dimostrare empiricamente i risultati delle sue riflessioni. Le critiche non cognitivistiche rivolte oggi alla teologia, infatti, hanno una matrice empirica e in certi momenti sono critiche che emergono da una prospettiva, da una matrice anche sociologica. Mi rifaccio a Max Weber. Si basano sulla verificabilità fattuale, pertanto sociologica anche, dei suoi asserti specifici. La sociologia descrive l'essere assumendolo sul piano della visibilità empirico-fattuale. E proprio per questo è scienza. La teologia descrive l'essere assumendolo sul piano della sua realtà spirituale, invisibile, comunque mai pienamente verificabile su quello empirico fattuale, E proprio per questo non viene considerata scienza. Queste critiche sono sintetizzabili nella non fondabilità scientifica del discorso teologico e nella conseguente vanificazione di ogni possibile risposta alla domanda sull'esistenza e sull'essenza di Dio, sulla possibilità per l'uomo di conoscere qualcosa di Lui, di parlare di Lui. Queste critiche vengono rivolte alla teologia, talvolta, tramite l'etica, che diventa oggetto, preso di mira anche da questo tipo di critiche. Anche la critica mossa all'etica, che evidenzia la non fondabilità empirica del suo discorso, deducendo da ciò la non scientificità valutativa di questa disciplina, o riportando la sua valutatività sul piano di una semplice riduttiva descrittività, si ripercuote con profonda negatività su due cardini fondamentali del discorso teologico. Le critiche, cioè, rivolte all'etica di tipo non cognitivistico, hanno alla base una critica fondamentale nei confronti del mistero della creazione e del mistero della redenzione. All'eliminazione del discorso etico della dimensione valutativa, infatti, corrisponde l'esigenza di reimpostare la struttura del discorso antropologico, evidenziando l'incapacità dell'essere umano di attuare in contesto morale un processo che dia base conoscitiva ai suoi fondamenti ultimi, o almeno l'impossibilità di verificare conoscitivamente tale processo e di parlare conseguentemente in contesto teologico di peccato. Aspetto antropologico, aspetto soteriologico. Un essere umano che non ha la capacità di fondare e verificare cognitivisticamente la sua scelta morale è essere solo descrittivamente e mai valutativamente rilevabile come soggetto morale. Ed essere, pertanto, che dal punto di vista biblico-teologico sarebbe stato voluto così dal suo creatore. Una simile visione etica comporta l'esigenza di riscrivere uno dei più fondamentali capitoli non solo dell'etica filosofica, ma anche di quella teologica e della stessa antropologia biblico-teologica. Un soggetto morale, infatti, solo descrittivamente considerato, non può mai essere responsabile se non esiste la dimensione valutativa. È possibile soltanto descrivere sul piano sempre descrittivo la diversa scelta che i singoli soggetti morali fanno, e descriverla significa togliere da questa scelta qualsiasi dimensione di responsabilità morale. Chi non è moralmente responsabile non può essere in peccato, non può aver bisogno della grazia salvifica di Cristo. Un discorso etico non cognitivisticamente fondato, cioè, comporta pure la vanificazione del mistero della salvezza. La morte e la risurrezione di Cristo sarebbero eventi superflui che mirano a riconciliare con Dio un essere che per sua congenita dimensione strutturale è incapace di compiere quel gesto che rinvia o che esige la successiva riconciliazione. La rivendicazione di una dimensione avalutativa per le scienze umane, pretesa da certe correnti sociologiche, si ripercuote molto negativamente sulla struttura del discorso teologico. nella avalutatività descrittiva della scienza sociologica, così come è concepita da qualcuno, è del tutto assente la rilevazione del momento etico-valutativo, del momento religioso-fideistico, inteso non in senso negativo, ovviamente. E la descrittività viene elevata a principio fondamentale della metodologia di altre discipline, non del tutto descrittivamente circoscrivibili. Terzo punto, l'ho intitolato orizzontalismo sociologico e verticalismo teologico del fenomeno religioso. Corrisponderebbe a quella dimensione relazionale di cui abbiamo sentito parlare, a mio avviso, ma una dimensione relazionale che per la sociologia è di tipo orizzontale, per la teologia è di tipo anche verticale. Divergenze prospettiche. La professione teologica è profondamente orientata verso la trascendenza. La trascendenza di un Dio che attrae a sé l'essere umano, chiamandolo, sin dalla eternità, al conseguimento di una condizione esistenziale di figliolanza. Capitolo primo della lettera agli Efesini. Essa si ripiega sull'uomo per vederlo proiettato in quella tensione escatologica di un rapporto di amore salvifico che lo vivifica, ponendolo in una condizione di immortalità, di eternità. La prospettiva della riflessione sociologica, profondamente e quasi esclusivamente orizzontale, può registrare un fenomeno religioso fondato con caratteristiche tipicamente sue sulla verticalità del rapporto uomo-Dio, solo se e nella misura in cui si sedimenta empiricamente il fatto storico-geografico vissuto all'interno di una cultura. Ma alla sociologia sfugge la possibilità di afferrare quanto di più specifico il rapporto di fede, cioè che l'uomo stabilisce col suo Dio, quanto di più specifico ci sia nel fenomeno religioso, che tuttavia resta sempre la riflessione sociologica dipendente dall'oggetto specifico della riflessione teologica, la quale si muove evidenziando sempre la verticalità dell'iniziativa divina nei confronti dell'uomo. Il rapporto uomo-Dio, singolarmente e comunitariamente assunto, che costituisce l'oggetto specifico della riflessione teologica, in quanto fenomeno umano storicamente impregnato nella spazialità e nella temporalità, non può non sedimentarsi in un contesto di orizzontalismo descrittivamente rilevabile come fenomeno ecclesiale o religioso. E questo fenomeno, come sedimentazione storico-geografica del dato essenziale specifico della teologia, descrittivamente rilevabile dalla sociologia, diventa la base su cui potrà verificarsi il punto di incontro fra l'orizzontalismo del discorso sociologico ed il verticalismo della riflessione teologica. Ovviamente ci sono delle convergenze anche. Questo significa che la teologia avrà bisogno della sociologia per appurare il risultato del processo di sedimentazione dei propri contenuti e per essere consapevole delle modalità della propria reificazione all'interno della storia. Ha bisogno di verificare la ricaduta storico-culturale della sua riflessione e può farlo solo mediante la sociologia. Ma significa pure, per la sociologia, la possibilità di evidenziare ed attuare una delle caratteristiche fondamentali delle sue rilevazioni, la finalizzazione specifica delle conoscenze della realtà appurate mediante indagine. E in questo non può, non deve essere considerata la sociologia come un'ancella della teologia. Ha una funzione, ha uno scopo, ha una specificità metodologica che in certi momenti serve ad altre discipline, che serve anche per verificare, per stimolare, per criticare il processo di riflessione operato da altre discipline, in questo caso dalla teologia. In ambito teologico ci abbiamo, quarto punto, un punto di vista ben preciso, quello che corrisponde ad una formula classica del sensus fidei. E questo lo assumo come una semplificazione del problema del linguaggio, come semplificazione di un linguaggio diverso per esplicitare la caratteristica di linguaggi diversi usati dalle diverse discipline. Perché la teologia, in quanto teologia, non è soltanto riflessione scientifica, essa è anche, prima ancora, momento intuitivo previo a qualsiasi rielaborazione sistematica ed autodiffondentosi in seno alla comunità cristiana, che percepisce in maniera sempre meno confusa e sempre più chiara certi contenuti del credo religioso, certi contenuti della rivelazione, fino a farli diventare oggetto di una riflessione consapevole ed esplicita. Il discorso della teologia, cioè, tende pure a comunicarsi e ad espandersi in seno alla comunità, per far diventare patrimonio collettivo di una intera comunità quei contenuti elaborati scientificamente da pochi. Si determina, cioè, un continuo intreccio reciproco fra il sensus fidei, fra questa intuizione ancora magari non consapevole di certi contenuti di fede, che tende però ad essere consapevolmente assunta dalla riflessione teologica, e nel dato elaborato dalla riflessione scientifica della teologia, che poi successivamente tende anche a diventare patrimonio comune di tutta quanta la comunità ecclesiale. Il sensus fidei, cioè, in termini antropologici, teologici, prima ancora biblici, può essere considerato come il frutto dell'attività dello Spirito Santo, che suscita nel cuore dei fedeli la conoscenza del depositum fidei, come la risposta della comunità al messaggio rivelato che, prima ancora di essere formulata intellettivamente, viene fatta propria dal cuore dei singoli credenti, come la teologia tipica di quella fase che si identifica col processo che porta all'assunzione consapevole del singolo dato teologico. E anche il sensus fidei, rileggibile come l'attrazione esercitata dai singoli contenuti della fede sulla comunità cristiana, analogamente a quell'attrazione che i valori esercitano in prospettiva etica sulla persona umana, quel sentimento dei valori di cui parlano i fenomenologi, come l'anticipazione e la sedimentazione sociologica, questa è la ricaduta della riflessione teologica, dei dati elaborati dalla riflessione della teologia. Sensus fidei, quindi, come formula che risolve il problema dell'impossibile traduzione in termini sociologici di un dato specificamente teologico. La rilevazione in campo ecclesiale dei contenuti di fede maturati in sensus fidei corrisponde pertanto alla rilevazione delle convinzioni religiosi, religiose e non, tipiche della sociologia, e diventa processo e fase di fondamentale ed imprescindibile importanza sia per la vita stessa della Chiesa come anche per l'evolversi dell'approfondimento scientifico del dato teologico. La teologia, cioè, e quella del futuro in particolare, non potrà fare a meno di attingere al depositum fidei contenuto nel sensus fidei. In seno a questa prospettiva è ricollocabile e rileggibile la formula anselmiana del credo ut intelligam, intellig ut credam, per una teologia che sia al tempo stesso fede vissuta e speculazione intellettiva, rilevazione del dato biblico-teologico e di quello socio-culturale, in cui il primo va immancabilmente a sedimentarsi. Sedimentandosi in termini socioculturali o come sensus fidei, cioè, questo contenuto dalla teologia, mediante la sociologia, dovrà essere assunto, esplicitato, approfondito ed eventualmente anche corretto. Nel sensus fidei si attua così il possibile congiungimento di un possibile rapporto fra sociologia e teologia, che produca in futuro arricchente e reciproca complementarietà. Anche per il futuro si prevede un dialogo fra teologia e sociologia, soprattutto appunto a livello di maturazione di quei dati elaborati dalla teologia, di quei dati vissuti, teologici vissuti, dal sensus fidei della comunità ecclesiale, e da questo punto di vista emerge una sempre più proficua dialogicità fra le due discipline. Ma le due discipline, passo direttamente al sesto e ultimo punto, che accenno semplicemente, ma queste due discipline, poste di fronte al futuro dell'uomo e del mondo, devono anche assumersi le loro responsabilità. Mai come nel momento attuale, noi ci ritroviamo di fronte all'esigenza di programmare il nostro futuro, il futuro dell'umanità. Mai come in questo momento ci ritroviamo di fronte all'esigenza di orientare in maniera etica la nostra prospettiva futura, percorrendo quella strada che è stata definita dell'epistemologia relazionale. Perché il futuro dell'uomo, da un punto di vista biblico-teologico, è affidato nel momento stesso della creazione alla responsabilità dell'uomo. Il futuro del mondo e dell'uomo va ideato, progettato, programmato e realizzato in maniera conforme alla stessa realtà umana. Con la descrizione del reale, la sociologia, evidenziando le costanti e non del fenomeno sociale, potrà in certo qual modo e in ogni caso, fino a che non interferiscano elementi esterni al fenomeno stesso ed imprevedibili, prevedere, anticipare e orientare il futuro dell'umanità o della storia. Lo potrà fare trasferendo il suo sguardo da una relazionalità quasi solo sincronica ad una relazionalità anche diacronica, da una relazionalità orizzontale ad una relazionalità anche verticale. Non può ignorare il passato, deve anche e può conoscere il presente per guidare lo sguardo umano verso il futuro. L'uomo di oggi non se lo trova a convivere solo con i suoi contemporanei, né è debitore solo ai suoi predecessori, molto di più dell'uomo di ieri. Egli è in effetti debitore anche nei confronti delle generazioni future e dovrà cercare oggi di intuire e soddisfare le attese di coloro che verranno ad abitare in un futuro più o meno prossimo questo nostro mondo. Nel fare questo, la sociologia può offrire quei dati necessari all'etica per programmare questo futuro dell'uomo, per orientare l'attività dell'uomo. Ma ci vuole anche, seconda prospettiva, ci vuole anche una prospettiva ecologica entro cui riportare tutta la nostra riflessione, perché progettare il futuro del creato presuppone sempre dal punto di vista teologico non solo uno sguardo proteso verso di esso, ma anche uno sguardo rivolto indietro verso il passato. Il futuro teologicamente considerato è sempre il complemento del passato, la realizzazione escatologica di un evento verificatosi all'inizio del tempo, l'esaurimento di un processo storico all'interno del quale l'uomo si ritrova responsabile nei confronti di quella creazione voluta da Dio. E la teologia dovrà anche aprirsi al futuro nel senso di un futuro non soltanto escatologicamente inteso, ma anche immanente a questa stessa storia umana. La teologia del futuro non potrà non evidenziare sempre più chiaramente le proprie responsabilità nei confronti del creato voluto da Dio. L'uomo, come creatura che governa la creazione di Dio, è responsabile di quel creato che gli è stato affidato, perché esso stesso un valore e perché in quanto tale va ridato, migliorato ai posteri. In questo senso noi siamo anche chiamati ad aprire un'altra prospettiva, quella delle generazioni future, ad aprire cioè e ad applicare il principio di imparzialità non soltanto nei confronti delle persone oggi esistenti, ma anche nei confronti di tutti gli altri esseri umani che verranno ad abitare questa terra in un futuro più o meno prossimo. La responsabilità etica, quella che deve essere esplicitata sul piano descrittivo dalla sociologia, che deve essere programmata sul piano etico da una riflessione valutativa, quella che si fonda anche sul piano biblico a partire da una riflessione teologica, la prospettiva delle generazioni future, delle nostre responsabilità nei confronti delle generazioni future, ci porta ad esplicitare il principio della imparzialità e ad applicarlo fino a tutte le sue ultime conseguenze. Perché il futuro verso cui noi ci muoviamo è un futuro che si gioca più sul piano dell'etica che non su quello della fede. È un futuro che vede messo in discussione più il depositum veritatis moralis che il depositum fidei. Il depositum fidei lo abbiamo fatto oggetto della nostra riflessione per 2 millenni. Il deposito di Veritatis Moralis oggi è messo in discussione dalle tante nuove biotecnologie, dalle tante nuove possibilità che l'uomo di oggi ha scoperto. Ed è messo in discussione dalla difficoltà di dare una risposta etica a questa prospettiva. In questo senso, io vedo un possibile dialogo fra teologia e sociologia. In questo senso vedo che il dialogo possa e debba andare a sfociare all'interno di una dimensione etica, proprio perché la salvezza, la realizzazione di quel progetto originario di Dio creatore, oggi è nelle mani dell'uomo. E se la salvezza è escatologicamente trascendente, dipende solo ed esclusivamente da Dio, quella immanente e storica dipenderà sempre dall'impegno etico dell'uomo. Grazie anche al professor Privitera di questa relazione così profonda e ricca. La tematica delle due relazioni, vi siete accorti, penso, mentre nello stesso tempo ambedue riflettevano sulla urgenza e necessità di un dialogo e di un incontro, hanno segnato una certa distinzione, mentre la relazione del sociologo tendeva a chiedere alla sociologia una maggiore apertura alla realtà che essa indaga, fino ad immettere all'interno di essa la relazione al trascendente, la relazione teologica sembrava, ecco un tema per il dibattito dopo, direi riferire privilegiatamente la relazione al trascendente alla teologia come tale. Comunque è interessante il discorso di Privitera perché ha introdotto all'interno di un discorso di scienze l'elemento responsabilità, che per sé riguarda non l'oggetto o il metodo o la scienza in quanto tale, ma i soggetti sono messi in causa, i soggetti che fanno teologia, i soggetti che fanno sociologia, sono chiamati a una responsabilità di fronte al futuro. E circa questo futuro è un terzo rilievo che farei, è proprio questa novità, questa insistenza su futuri soggetti concreti, non il futuro neutro, ma i futuri. È un tema interessantissimo, nuovo in un certo senso. Nella classica teologia noi discutevamo se in Dio esistono e come i futuribili, erano ancora delle entità astratte. Qui abbiamo i soggetti, i nostri fratelli di domani, che sono futuri, sono solo possibili, sono invocabili, hanno diritto, è una tematica tremenda, abbiamo dovere di fronte a loro. Come vedete, il tema del futuro si colora di volti, diventa anche un problema etico e non solo di una scientificità cosiddetta neutra, anti-ateismo, diceva il professor Donati, ma diventa un problema proprio di responsabilità di fronte a quelli che non esistono ancora e non sono. Mi sembra che abbiamo già caricato qualche cosa di interessante per il dibattito dopo.